cosa è stato che ha cambiato il mondo ed anche noi. Io non voglio più vedere gente stanca di questi guai. Facile non è lottare, poi capire che non basta. Ma chi è stato che ha cambiato il mondo? Sei colpevole oppure debole? Dimmelo tu. Beatamente in questo inferno di nuvole. Se c'è una ragione perché siamo qui, riprendiamoci il cielo e che sia tutto più bello. Inferno di nuovo.